9 in punto, la versione di Oscar. Oh, oh. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 17 di maggio, oggi è San Pasquale Bailon, per noi che abbiamo la classico titolo di un film, una commedia all'italiana, un po' di quelle occhieggianti degli anni 70. San Pasquale Bailon è protettore delle donne, ma insomma chi festeggia oggi il San Pasquale abbia i miei auguri. Allora, puntata che va avanti sul nostro ascolto, sull'ascolto dell'iniziativa che abbiamo lanciato a Disperati Mai Chioccio Radio24.it e che ci è valsa migliaia e migliaia di lettere dal cuore dell'impresa piccola che soffre perché lo Stato picchia, perché prende ma poi non dà, non paga e non compensa i suoi crediti fiscali, soffre perché il credit crunch morde, soffre perché tutti sono diventati cattivi pagatori seguendo l'esempio dello Stato ladro. E a questo proposito, prima di presentarvi gli ospiti, prima di leggervi un po' di lettere, quando vedo l'arcigna fredda modalità con cui esponenti di questo governo fanno notare che poi chi attacca, chi è esasperatamente populista, come un pezzo di informazione, secondo me ce l'hanno un po' anche con noi, manca di rispetto allo Stato e diventa oramai quasi si confonde con chi poi manda i volantini per fortuna finti, come quelli di ieri in cui si diceva che il capo dell'Agenzia delle Entrate era messo nel mirino di nuovi attentati, per fortuna finti, ma non per questo bisogna sottovalutare. Però quando vengono queste critiche, la mia risposta è questa. La Sicilia, sapete la Sicilia, la regione che ha regolarizzato migliaia e migliaia di dipendenti aggiuntivi nella finanziaria del governo lombardo della settimana scorsa, notizia che ha fatto trasalire molti di voi credendo che ce lo inventassimo, invece è puntualmente così. Oggi abbiamo letto che cerca camminatori. Sì, avete sentito bene, cerca dei camminatori. Nel senso che Vincenzo Falgares, il dirigente generale del Dipartimento Trasporti dell'Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Sicilia, cerca 20 protocollisti archivisti e poi cerca 30 camminatori. Chi sono i camminatori? Sono operatori per garantire il servizio di portierato commesso di piano, movimentazioni pratiche, nonché qualunque altra attività di supporto al servizio di ufficio. No, viva il web, viva la tecnologia, cerchiamo i camminatori. Allora, fino a che noi leggeremo cose di questo genere, vi faccio notare che prima dei 12.000 della settimana scorsa, comunque già la regione Sicilia conta 16.000 dipendenti, 1.200 dirigenti, cioè c'è un dirigente ogni 12, qualcosa dipendenti. Allora, fino a che noi continueremo a leggere cose di questo genere nel perimetro pubblico italiano, avremo tutte le sacrosante ragioni per essere indignati. Fino a che le cose nei rapporti fiscali tra il cittadino e lo Stato verranno improntate a un'univoca asimmetria, noi avremo tutto il diritto di essere crescentemente arrabbiati. Quando ci verrà risposto che dobbiamo stare zitti e pagare, a quel punto avremo il diritto di alzare la voce. E se anche i professori sono peggio dei più incalliti, dei più lividi politici che hanno commesso coi loro errori anno dopo anno, lievitando il debito e la spesa corrente e fingendo di non capire, oppure non capendo perché sono ignoranti, l'accumularsi di una giurisprudenza intollerabilmente autoritaria da parte della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale, improntata al favor fisce, che dà sempre ragione a uno Stato totalitario, perché è solo totalitario uno Stato che ammette che ha sempre ragione e si dà ragione da solo, perché calpesta i diritti naturali del contribuente. Fino a che noi vedremo questo, io penso che avremo il legittimo dovere di fare notare che così non va e che chi leva una protesta civile, magari a voce alta come talvolta capita a me, a questa radio, non fa che assolvere una funzione fondamentale. Una democrazia funziona fino a che c'è qualcuno con le orecchie e gli occhi aperti. Quando invece il crisma imperante diventa tacete, obbedite, viva lo Stato, questo è autoritarismo. Non è che fa differenza se a difendere viva lo Stato sia chi è un diplomato ragioniere, chi ha un finto titolo conquistato in Albania come i figli dei vertici leghista, se qualche laureato che fa finta di invece non vedere il proprio tesoriere del partito di sinistra che spalacquava milioni e milioni e tutti cadono dalle nuvole, oppure se si hanno, come è nel caso del governo attuale, più lauree e master all'estero. Io mi aspetto da chiunque sia, qualunque sia il suo titolo di studio, la comprensione del fatto che c'è una rottura tale in atto nel cuore dell'economia italiana che parecchie di queste cose che riguardano lo Stato dentro vanno mutate, anche perché poi sapete che il quadro europeo sta andando rapidamente in un deterioramento molto forte. Qualche flash di cose europee, un po' di tempo che trascuriamo queste vicende. Allora, il problema, ieri è scoppiata una granetta quando si è capito che la Banca Centrale Europea ha temporaneamente sospeso la garanzia sulle operazioni di lending degli impieghi di alcune banche greche e ha motivato che anche la BCE deve a un certo punto limitare i suoi rischi, quindi inizia anche la BCE a prendere in considerazione l'ipotesi che la Grecia possa uscire. Ieri sono venuti nuovi avvisi molto autorevoli sul fatto che la Grecia possa obiettivamente uscire dopo il voto che ci sarà il 17 di giugno. È stato il presidente della Banca Mondiale Robert Zelic a pronunciare il suo monito e Christine Lagarde l'aveva già fatto capire che anche per il Fondo Monetario oramai le cose possono andare così. Sul Financial Times Lorenzo Bini Smaghi, lo ricordate, l'ex membro italiano del board della BCE, ha scritto un articolo in cui dice che i greci dovrebbero innanzitutto adeguarsi al criterio per il quale i patti bisogna mantenerli, pacta sunt servanda, e il secondo è che se l'Unione Europea commette l'errore a questo punto di far saltare i termini degli accordi a cui la Grecia è impegnata e di rinviare tutto, allora la parola d'ordine diventa azzardo morale per tutti gli euro deboli. Quindi Bini Smaghi su una posizione dura, e lo stesso è Wolfgang Munchau sul suo editoriale scritto sullo Spiegel online. Wolfgang Munchau aggiunge che l'uscita però della Grecia renderebbe necessaria una tale somma di misure tecniche da assumere nel giro di una notte o una mattina in sede europea per evitare contagi paurosi, che pensa che una delle ragioni che alla fine però spingeranno l'Europa ad assecondare parecchie delle richieste greche sia quella dell'impossibilità altrimenti di sapere governare tecnicamente l'ondata di disastri che avverrebbe in Europa nel caso di uscita. Intanto in Irlanda, tutti ce lo dimentichiamo, ma tra due settimane si vota il referendum sul fiscal compact. Attualmente come sono i sondaggi? I sondaggi dicono che il 37% dicono sì degli irlandesi nelle urne, il 24% no, ma il 35% ancora non ha deciso niente. Il 4% già da adesso dice che non andrà a votare. Attenti perché questo voto complicherebbe, nel caso di vittoria di no, ulteriormente il quadro poi che ci porta alle elezioni greche e poi all'Eurovertice del 23, che però è prima del voto irlandese. Intanto in Germania la Merkel ha fatto secco Norbert Röttgen, che era il capo democristiano sconfitto rovinosamente in Renania del Nord-Westfalia, e lo ha fatto secco perché era ministro del governo federale che guida Angela Merkel, era ministro dell'ambiente e l'ha silurato senza pensarci due volte. Del governo Hollande, il suo governo con 34 ministri, 17 donne, con ritorno di personaggi ben noti come Laurent Fabius e Pierre Moscovici agli esteri e all'economia, trovate tutto sui giornali, compreso il primo litigio di Madame Aubry, che ha chiesto per sé la premiership, che invece le è stata negata perché è andata al sindaco di Nantes, molto più fedele, Jean-Marc Ayrault, molto più fedele a Hollande, e vedremo che cosa avverrà da questo punto di vista. Allora, passiamo agli ospiti di oggi. Cominciamo con Susanna Nunnari. Susanna Nunnari chiedo scusa preventivamente nel salutarla, è un avvocato E qui siamo di fronte a uno dei classici esempi dei temi che abbiamo trattato ieri, perché siamo nell'ambito del rapporto con un'amministrazione tributaria italiana abbastanza, diciamo così, cieca e sorda, per così dire. Allora, buongiorno avvocato. Buongiorno, mi chiamo Concetta. Ah, Concetta, quindi. Mi aveva dato un bellissimo nome, Susanna. Vabbè, ecco, colpa della mia redazione, ma mia anche. Allora, ci racconti un pochino come è nata la vicenda e che sviluppi ha avuto? Guardi, la vicenda è nata 10 anni fa, è nata da alcune opposizioni a sanzioni amministrative da me proposte davanti al giudice di pace, poi successivamente vinte, e poi a distanza di tempo mi sono state notificate diverse cartelle che erano sempre relative a quella sanzione amministrativa annullata con sentenza passata in giudicato e ad altre del genere. Durante questi anni io ho dovuto continuamente impugnare queste cartelle che mi venivano notificate, una sola le dico tanto per dire, per ben 8 volte, tant'è che alla fine Equitalia, che si costituiva sempre in giudizio, è stata condannata anche per lite temeraria. Dopodiché avevo anche subito un fermo amministrativo di una vettura che io non conoscevo perché non mi è stato mai notificato, quindi ho circolato per 6 anni con un fermo senza saperlo. Una volta che me ne accorsi, insomma, perché chiesi all'ACI di verificare la mia posizione con il bollo auto, e fece appunto un'istanza all'Equitalia, che all'epoca si chiamava Equitalia ETR, e si accorsero che non me l'avevano mai notificato e mi annullarono tutto, accorgendosi anche del fatto che le cartelle erano da discaricare. Quindi, ciononostante, io ricevo poi un'altra serie di atti, sempre che in pugno, vengono sospesi, annullati, con sentenze passate in giudicato, fino ad arrivare a 2 distinte ipoteche, la prima nel 2006, che era per un credito di 1.500 euro, quindi ben al di sotto degli 8.000 previsti dalla legge, ed era riferita a un'altra cartella mai notificata, e poi c'era questa famosa multa, questa famosa cartella che mi si ripropone veramente come un tormentone, ed altre cose prescritte. Vengono impugnate viene impugnata questa ipoteca, dopodiché è ancora in Cassazione ferma, e me ne viene notificata un'altra, quest'altra era in pugno, viene annullata dalla Commissione Tributaria. Successivamente ricevo altri 7 avvisi di morosità. Questi avvisi stavo per impugnarli quando improvvisamente mi viene notificato un avviso di vendita del mio appartamento per la data del 30 di luglio, quindi mi viene notificato il 9 di maggio, sulla base di un'ipoteca annullata con sentenza passata in giudicato. Io ho sintetizzato parecchio, ma 10 anni di questa vita ad impugnare costantemente atti che non esistevano, nulli, prescritti, è stato qualcosa che non auguro al mio peggior nemico. E oltretutto, avvocato, è ovvio che per lei questa attività, sia pure onerosa e sia pure distogliente rispetto all'attività professionale, ma comunque le viene più facile che al cittadino medio, che è sprovvisto dei fondamenti che ha lei per la professione che fa. Sicuramente, infatti per questo ho deciso di procedere con una querela, perché dopo aver sentito di tutte le persone che hanno compiuto gesti inconsulti in conseguenza delle notifiche di quelle che vengono definite comunemente cartelle pazze, io mi sono detta: voglio fare qualcosa per fermare queste persone, per fargli capire che quello che stanno commettendo è un reato, perché nel mio caso non ha sbagliato l'Agenzia delle Entrate o il Comune o un altro ente, è un errore di Equitalia che nel mio fascicolo non ha mai inserito le varie sentenze che ho ottenuto, e penso che questa situazione, così mi stanno dicendo le centinaia di persone che mi stanno telefonando e mandando mail, non sia un fatto solo di Concetta Nunnari, sia un fatto che riguarda tantissime persone, quindi non è un caso isolato come si vorrebbe far passare nelle varie trasmissioni televisive che ho avuto modo di ascoltare. Non è così, perché ci sono delle responsabilità, perché come lei mi insegna l'Equitalia è una società a capitale misto, quindi gli impiegati che lì lavorano sono esercenti una pubblica funzione, possono essere, così come io ho fatto, imputati e querelati per abuso d'ufficio, omissione d'atti d'ufficio, oltre ad altri reati, rispondono dei loro atti di fronte alla Corte dei Conti per danno erariale. Quindi io mi sono detta: cosa fare? Sono andata davanti ai giudici civili e tributari, ho avuto ragione e nessuno me la sta riconoscendo. A questo punto forse è meglio prendere l'elenco di tutte le persone che esistono all'interno di Equitalia Sud e denunciarle, perché così forse riusciremo a salvare, non dico qualche vita, ma a dare una speranza a qualche persona che si vede subissata, diciamo appunto stalchizzata da parte di questa società con cartelle non dovute. E io appunto, come lei giustamente ricordava, faccio l'avvocato, quindi al limite devo solamente spendere il denaro che comporta l'acquisto del contributo unificato. Ho avuto un validissimo commercialista nella persona del dottor Pasquale Raffa, che sta facendo un'opera meritoria nei confronti di Equitalia, perché sta riuscendo ad annullare quasi tutte le cartelle illegittime. Ma chi non lo può fare? Chi ha una casa magari nella quale sta pagando un mutuo o ha perso il lavoro, cosa fa? Dove va? Ecco, avvocato Onore, io la ringrazio perché l'avvocato Onore esprime con proprietà e determinazione la via che è il primo gradino che i cittadini, i contribuenti, gli imprenditori devono imparare con sempre maggior freddezza a battere nei confronti dello Stato inadempiente, ladro, oppure dello Stato che diventa praticante l'abuso d'ufficio. Bisogna portare lo Stato alla sbarra. Il problema è che è oneroso, occorre tempo, non è detto che dia soddisfazione, nel senso che poi il favor fish è un principio che nella nostra giurisprudenza purtroppo prevale. Talvolta però è non solo l'unica cosa da fare, ma quella che bisogna intraprendere con forza, con energia, moltiplicando le azioni a costo di farsi dire che si fanno azioni temerarie, è agli occhi di tutti una cosa spropositata, è come la lotta del topolino contro l'elefante, ma bisogna cominciare così, bisogna piantarla con la sottomissione, l'accettazione, il fatalismo. Lo Stato non ha affatto sempre ragione per definizione, se la dà, ma se la dà con le misure che a volte non sono quelle del diritto, ma sono quelle della pura forza, sono quelle dell'abuso del diritto. E infatti poi mette in legislazione che l'abuso del diritto nel nostro ordinamento c'è solo da parte del contribuente nei confronti dello Stato e non da parte dello Stato nei confronti del contribuente, e dice questo perché sa perfettamente che l'abuso di diritto è la sua logica prevalente oramai. E il fatto che ci siano dei giudici, oltre che dei legislatori assonnati, che purtroppo fanno proprio questi principi, ci descrive la realtà di un paese il cui ordinamento è diventato nel rapporto tributario tra contribuente è stato quello di un paese totalitario, inaccettabile, inaccettabile. Quindi viva, per quello che mi riguarda, le 10, 100, 1000, centinaia di migliaia di contribuenti che nelle condizioni dell'avvocato Nunnari fanno esattamente, seguono la sua strada. Io ringrazio l'avvocato e tra le tante lettere ve ne leggo adesso quella di, quale vogliamo scegliere? Questa di Franco Pellizzari. Franco Pellizzari, perfetto. Allora, lui ci dice è una vicenda assurda ma non isolata, come sento da tanti giorni sulle vostre trasmissioni, che mi ha visto versare nel 2009, scrive Franco Pellizzari, le medesime identiche imposte, ovviamente maggiorate le sanzioni interesse, di quanto già versato nel 2006 sull'anno di imposta 2005. Questa frase è quanto letteralmente pronunciato da un cortese funzionario dell'Agenzia delle Entrate dopo l'ennesimo incontro nel quale cercavo di capire perché non mi venivano riconosciute delle imposte che erano state regolarmente versate, tutte assolutamente documentate, mentre per il fisco era come se non le avessi versate, ci scrive Frank. Sottolineo, come se non le avessi versate. È cosa diversa dal dire che non le ho versate. Cronistoria, agente di commercio dall'85, problemi con il fisco neanche mezzo, fino al 2009. Aprile 2009, una raccomandata dell'Agenzia delle Entrate mi notifica di avere erroneamente utilizzato dei crediti maturati nel 2005 ma senza averne titolo, e per regolarizzare la situazione mi viene chiesto di versare IRPEF, IVA, IRAP, INPS non versati per l'anno di imposta 2005, totale 6.000 euro. Impossibile, ho in mano tutti gli F24, dei versamenti effettuati, timbrati e firmati dalla banca per l'anno di imposta 2005, ho in mano la dichiarazione delle ridotte dal conto trattenute e versate alle ditte mandanti, non è neanche tanta documentazione da controllare, essendo un po' agente di commercio che fa poche decine di fatture all'anno. Verifica supplementare, scopro a quel punto con raccapriccio che l'invio telematico del modello unico 2006 da parte del commercialista di allora non è andato a buon fine per un'errata compilazione di alcuni quadri, non tutti, solo alcuni, quindi la dichiarazione era arrivata all'agenzia comunque. Tralascio commenti sulla professionalità del commercialista, peraltro senza copertura assicurativa, che tuttavia da 10 anni mi seguiva senza problemi. Comunque, dichiarazione omessa, questo è il risultato per l'agenzia. Tradotto, che cosa vuol dire? Aggiunge Franco. Vuol dire che sono un evasore totale. Spiegato ancora meglio dall'agenzia, virgolette, anche se lei le imposte le ha versate, non avendo presentato la dichiarazione, è come se non le avesse mai versate. Noi i suoi soldi ce li teniamo, ma lei è un evasore. Chiedo, ma da qualche parte però il fatto che i soldi sono andati a buon fine e io ve li ho versati deve risultarvi. È chiaro che ci sarà una traccia contabile che dimostra che le imposte mie sono state versate. Eh no? Posso capire la sanzione, dice Franco, e questo inizia a diventare già un atteggiamento di fatalismo. Posso capire la sanzione per l'omessa compilazione, anzi l'errata compilazione di alcune parti del questionario, ma io le imposte le ho già versate. Provo a spiegare, a chiedere a tre agenzie diverse, tutte danno la stessa risposta: no, no, no, per noi è come se non le avesse pagate. Ovviamente ripago. E intanto però qualcuno mi consiglia di fare una richiesta di rimborso, inoltre una richiesta all'INPS per la quota di sua competenza, e dopo pochi mesi mi arriva il segno del rimborso di 1400 euro per doppio versamento. Ma allora la strada c'è, mi dico, continua Franco. Inoltre la medesima richiesta per l'IRPEF, IVA e IRAP all'agenzia delle entrate, ma il funzionario stesso dei rimborsi mi sconsiglia di fare la richiesta, perché, ma lei cosa vuole fare? Mi dice, lei vuole alzare troppi coperchi, le potrebbero fare un accertamento induttivo, qualcosa sa. Noi troviamo sempre, eh? È meglio che la finisca qua, se la metta via questa richiesta di rimborso. Infatti, a maggio 2011 arriva la seconda raccomandata dell'agenzia, accertamento induttivo. Sfortuna vuole però che proprio nell'anno 2005 io ho cambiato mandato di rappresentanza con una nuova ditta, un nuovo mercato, nuovi prodotti, e c'è stata una sensibile riduzione del fatturato dovuto proprio all'avviamento di un nuovo mandato. Riduzione poi rientrata già nell'anno successivo, tornando agli standard precedenti. Niente da fare. L'agenzia, su base statistica, dichiara che il mio reddito deve essere molto più alto e quindi mi appioppa un'altra sanzione, 8.000 euro, che sommati ai 6.000 fanno 14.000. Quasi mi vergogno a parlare di una cifra del genere quando sento situazioni molto ma molto più pesanti della mia, ma nel mio piccolo 14.000 euro con tre figli da crescere sono tanti. Concludo. In fase di accertamento mi viene spiegato che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi 2006 dà il diritto all'agenzia di stabilire arbitrariamente quanto io avrei dovuto fatturare. A niente valgono le mie pacate richieste di valutare comunque le imposte effettivamente versate, che dimostrano la piena buona fede. La legge, mi si dice, non permette all'agenzia di fare eccezioni. La risposta è: la legge è questa, per crudele che sia. Allora, questa storia di Franco Pellizzari, qui non stiamo più neanche parlando di omessa fedeltà da parte del commercialista, stiamo parlando di imposte versate, di uno che ha imposte versate diventa evasore totale e da quel momento in poi, soggetto a tutti gli accertamenti induttivi su base del fatto che sia un evasore totale, descrive una situazione kafkiana. È la situazione in cui il contribuente viene unilateralmente definito un bandito da un ladro di professione incallito, e quel ladro è lo Stato. Ed eccoci tornati. Una delle ragioni della intollerabile violazione degli elementari diritti naturali del contribuente nel nostro ordinamento, a mio giudizio, è il fatto che in pendenza di un ricorso, comunque io per contestare, per avere diritto a una contestazione, cioè per un ricorso avere diritto a entrare in lite con lo Stato che mi contesta un'imposta su un reddito che quantifica lui diverso da quello che dico io debba comunque pagare un terzo di quello che lo Stato mi chiede. Io lo trovo intollerabile, questa cosa per di più per entrare poi in un procedimento in cui il giudice non è terzo ma fa parte a propria volta dell'amministrazione tributaria, altra violazione intollerabile. Eppure capita che neanche questo terzo ti venga chiesto, ma ti venga chiesto di pagare tutto. Ce lo documenta Gian Piero Guarniero, che è un dottore commercialista, un revisore legale, insomma sta anche in studi molto grandi, che ci scrive quanto segue. Un cliente riceve un avviso di liquidazione in materia di imposta di registro. Tralascio il merito della controversia, accenno solo al fatto che è la nota questione della pretesa applicazione dell'imposta di registro proporzionale dovuta al caso di cessione d'azienda a un conferimento aziendale seguito da cessione di quote, ma insomma quello che al di là di questo, al di là del merito, il problema è l'aspetto della riscossione, perché il cliente presenta regolare e tempestivo ricorso e con esso anche la controparte contrattuale. Il contenzioso si radica presso la commissione tributaria, alla quale è già emesso due provvedimenti, uno di riunione dei procedimenti eccetera eccetera, l'altro di diniego della richiesta di sospensione. Allo Stato dunque il ricorso è pacificamente pendente in commissione, in attesa dell'udienza di merito, commissione tributaria. E l'Agenzia delle Entrate ne è perfettamente a conoscenza, ci scrive Gian Piero Guarneri, sia per il fatto di essersi a propria volta ovviamente costituita in giudizio contro, sia per il fatto di avere fisicamente presenziato a entrambe le udienze. Allora, qui la legge, cioè il DPR 131-86, all'articolo 56, dispone che il ricorso del contribuente non sospende la riscossione a meno che si tratti di imposta complementare per il maggior valore accertato, in tal caso la maggiore imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine, eccetera eccetera. Come avete visto, il terzo che bisogna pagare, che dicevo prima, che a me già scandalizza terribilmente, ma questa è la legge dello Stato autoritario che lo Stato e il legislatore hanno scritto per dare ragione allo Stato. Allora continua Guarnerio dicendo: la disposizione peraltro speculare a quella prevista in materia di imposte dirette, infatti, appare chiara in presenza di ricorso, la riscossione è ammessa limitatamente al terzo dell'imposta. Ebbene, invece, entrambe le parti ricevono una cartella esattoriale con la quale Equitalia richiede il versamento dell'intera maggiore imposta, delle sanzioni pecuniarie, degli interessi oltre ad aggivare. In soldoni, invece dei 24.055 euro, che già secondo me autoritariamente lo Stato pretende in questa vertenza, che vengano pagati da subito per andare in contraddittorio alla commissione tributaria, la richiesta è di 112.211,97 euro, pari a 4,66 volte. Si chiede a questo punto il dottore commercialista Gian Piero Guarnerio: come la mettiamo? Chi è responsabile? Sarà il direttore dell'Agenzia delle Entrate o il direttore di Equitalia? Scommetto invece che non pagherà nessuno dei due. Ora, entrambi le parti a questo punto, oltre che essere richiesti del pagamento integrale e non di un terzo, dovranno presentare un ulteriore ricorso per vizio proprio della cartella, pagare un ulteriore contributo unificato, arricchendo ancora una volta lo Stato grazie ad un suo errore, pagare i professionisti che personalmente ringraziano e con tutta probabilità non riceveranno alcun risarcimento per il danno subito. Ecco, questo è lo Stato fascista e ladro che si dà ragione da solo e se ne fotte delle sue stesse norme che purtroppo sono già unilateralmente a suo favore e lui le moltiplica per tre. Queste robe qua ce ne abbiamo lettere a centinaia, sono eccezioni? A me non pare proprio. Allora, in tutto questo vediamo un pochino le reti che si sul territorio si danno da fare invece per moltiplicare l'ascolto e il sostegno alla piccola impresa in difficoltà, e è il turno oggi della Confapi, Confapi di Asti, perché è con noi il presidente, ma è con noi, no, è caduta la linea in questo momento, vediamo se me lo stanno collegando il presidente di Confapi di Asti, che è Pierangelo Cantarella. Sì, ecco, presidente Cantarella, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, che cosa Confapi Asti tenta di fare per dare un sostegno a piccola impresa in difficoltà e per evitare che ci siano anche casi come quelli che nelle ultime settimane e mesi purtroppo dolorosamente abbiamo dovuto poi riscontrare nella nostra cronaca? Che cosa siete riusciti a fare? Ma sostanzialmente, a fronte di questo ragionamento che lei giustamente ha fatto e che anche ad Asti si sta purtroppo verificando, c'è sempre più giunta l'esigenza di, oltre ai classici servizi abituali che qualsiasi associazione danno, quindi sindacale, legale, formazione e quant'altro, qui si aveva praticamente solo più di richieste di aiuto dall'arme per salvaguardare la continuità dell'azienda. Quindi si è iniziato a fare dei ragionamenti, soprattutto anche al fatto che le banche e gli istituti di credito non elargiscono più la liquidità necessaria, e capire quali erano effettivamente le vere cose che un'associazione in questo momento avrebbe potuto fare. E facendo questo ragionamento si è visto che poi in pratica, non essendoci più domanda ed essendoci solo più problematiche legate ai ritardi di pagamenti e quindi cartelle esattoriali, Equitalia e quant'altro, anche dal punto di vista psicologico l'imprenditore andava ad avere criticità che non le permettevano più di ragionare o di avere una tranquillità operativa nel funzionamento della propria azienda. Fatto sta che questa cosa si sta rivelando appunto a livello nazionale, e anche a Asti e provincia qualche caso purtroppo c'è anche stato, un'imprenditrice che un mese e mezzo fa si è suicidata impiccandosi sul carro ponte del proprio capannone. E voi siete riusciti, avete pensato di mettere in piedi anche un supporto psicologico? Sì, noi fortunatamente all'interno dell'associazione abbiamo una braccia che è la sanità, con una presidentessa, la Rita Bondani, che ha 4 unità che fortunatamente, avendo attività sia con i disabili che con i problemi mentali e quant'altro, lavora abitualmente con psicologi e psichiatri. Ma sottoscritto è venuto un po', voglio dire, modestamente questa idea di coinvolgere lei, che si è ritenuta entusiasta, e quindi in questi giorni stiamo proprio approfondendo dei colloqui con queste psicologhe per trovare la soluzione anche più adatta, perché bisogna poi che la psicologa sia anche in grado di supportare giustamente l'imprenditore, perché non è detto che chi parla con... Esatto, sì, anche perché proprio ne parleremo proprio adesso con un altro ospite, c'è un aspetto particolare di questo disagio. Comunque noi ringraziamo, come vedete, io nella trasmissione qua non faccio distinzione tra associazione di impresa di nessun tipo, qui ci vuole una grande coesione, un orgoglio di impresa che deve unire certo. L'API, deve unire Confartigianato, deve unire la CNA, Confcommercio, Confindustria, io non sono capace di vedere distinzioni, qui il problema che la difesa del tessuto dell'impresa, a cominciare da quella piccola e piccolissima, dalla rete molecolare, dalla piccola impresa italiana, secondo me dovrebbe unire tutti, e dovrebbe unire anche nel senso di evitare il giochetto che fa lo Stato sempre, quello di dire ma i dipendenti sono un'altra cosa, il sostituto d'imposta, voi siete quelli che si sottraggono. Più lavoro e impresa riusciranno a stare uniti in questa crisi più cattiva di quella del 2008-2009, secondo me meglio sarà per tutti. Quindi grazie a Pierangelo Cantarella e alla Confapi di Asti per quello che fanno. Ornella da Padova, prego Ornella, che ci dice? Buona giornata. Allora vi dico, disperati mai e orgogliosi di lavorare sempre. Io sono un dottore commercialista della provincia di Padova e ho piacere di partecipare a questa trasmissione perché volevo solo confermare che quello che è successo all'avvocato che ha parlato all'inizio della trasmissione, che ho preso purtroppo non dall'inizio, è una cosa che succede un po' in tutta Italia. E dico purtroppo perché questa cosa mette in ginocchio i contribuenti e anche chi cerca di aiutarli. Io volevo solo dare testimonianza di una cosa successa a me personalmente, perché se comincio a parlare della professione non ne finiamo più. Io volevo solo dire questo: un giorno viene notificato in studio una lettera da parte dell'INPS che mi dice che ho evaso contributi dipendenti per anni. Ora, facendo passare tutto dai dipendenti dello studio, la lettera è stata aperta da la persona da me, presa prima come praticante, poi come lavoratore a tempo indeterminato da più di 10 anni, la quale viene con la lettera, me la mostra, è bianca. Perché dice non hai versato i contributi per ieri. Perché i suoi contributi, stavamo trattando anche dei suoi contributi, io dipendente quindi pago i contributi. Ora lei si rende conto che in uno studio dove uno lavora fianco a fianco, tra l'altro in un periodo dove cominciavano ad arrivare veramente quelle che noi chiamavamo cartelle pazze, cioè queste richieste assurde ma a fronte di società chiuse piuttosto che pagamenti effettuati, e che all'Agenzia delle Entrate mi hanno sempre detto non si possono chiamare pazze, però dico caspita, se riescono a prendere tutti quelli di un certo settore e mandare pagamenti che sono già stati effettuati, io non so come altro chiamarle queste cartelle. E come è finita? È finita che io sono andata personalmente all'INPS a sgravare questa cartella perché era mio nome. Sì. Allora, si trattava solo di INPS dipendenti. Si trattava di INPS dipendenti dove il versamento era stato fatto con F24 telematico, in quanto io, titolare di partita IVA, come tutti, dalle ultime normative, sono obbligata a fare i versamenti col telematico. Naturalmente li faccio io personalmente, li scarico io, avevo tutta la documentazione a mio nome, perché gli F24 erano a mio nome, la cartella era a mio nome. E non mi sono permessa di portare una delega a mio nome perché ero io, sono arrivata con la carta d'identità all'INPS a sgravare questa cartella. Sì. Non chiedevo le scuse che io non ho mai sentito, certo, in questo paese, per carità, però mi attendevo che il funzionario dall'altra parte, oltre a avermi passato di mano in mano, mi dicesse sì, la sgraviamo. E invece mi ha detto, ah signora, guardi, mi dispiace, ha sbagliato il commercialista. Naturalmente i commercialista ci hanno provato perché non sapevano che il commercialista era lei, questo è il punto. Ma a parte che bastava guardare il nome e non mi chiamo di cognome Rossi, ma voglio dire, questa cosa mi ha fatto un po' imbestialire, per cui gli ho detto guardi che se legge bene il nome vede che la persona sono io, ma non aveva ancora capito, continuava a dire che sbagliava il commercialista. Allora a un certo punto mi sono alzata e ho detto guardi, io vado via, se vuole me la sgrava, tenga conto che ha una persona che ha già problemi in studio che deve spiegare ai propri dipendenti che sono stati pagati i contributi, E ho detto, mi riterrò a questo punto autorizzata a fare tutte le istanze del caso. Però ripeto, non è che tutti devono essere dottori commercialisti. No, esatto. Ma questa è un'ulteriore testimonianza del fatto che, diciamo così, l'abuso di diritto, sia scente e cosciente o derivi da ignoranza e trascuratezza intollerabile, è molto più esteso di quello che si immagini ed è la cifra che arriva prevalente. E tornano i Doors e noi ritocchiamo il punto dei suicidi, e con noi uno psichiatra psicoterapeuta, si chiama Leonardo Mendolicchio, e con Leonardo Mendolicchio il punto diventa una risposta a tutti coloro che dicono che è una strumentalizzazione, che non bisogna parlarne. Nando Della Chiesa ha dato una risposta sprezzante, peggio di quelle di Ferrara. Pensano tutti che inventiamo tutto noi, non è vero, contano solo i suicidi dei dipendenti, per me contano quelli dei dipendenti che perdono il lavoro e degli imprenditori. Chi ragiona così o è di formazione hegeliana, sinistra comunista marxista, in quel caso faccia, o altrimenti però non sa leggere le statistiche. Chiediamo invece a Leonardo Mendolicchio, e in questo aumento di visibilità ma anche del numero dei suicidi degli imprenditori, qual è la cifra psicologica che lei coglie? Buongiorno innanzitutto Oscar, a lei e ai suoi ascoltatori. La questione è molto importante, non si può assolutamente analizzare. Se lei mi premette una piccola premessa sul suicidio, una premessa, sì, certo, tecnica, è importante capire una cosa: il suicidio ha una doppia valenza. Innanzitutto è un gesto estremo, come tutti noi possiamo cogliere, che rappresenta in qualche modo una risposta ad un'angoscia difficile da poter gestire. Appunto, il gesto di togliersi la vita è la risposta più difficile, più ardua che un uomo possa compiere. E questo è il primo punto. Il secondo punto è che dietro al gesto del suicidio c'è un grosso momento comunicativo. Le faccio due esempi, uno recentissimo e uno dalla letteratura. Se noi prendiamo ad esempio il lutto che ha colpito Bologna e la regione Emilia-Romagna con Cevennini, quello è un gesto che è stato estremo, fatto dal consigliere regionale in un ambiente e con una modalità specifica, e ha un grosso significato comunicativo. Se prendiamo l'esempio della letteratura, ad esempio Madame Bovary, anche lì c'è tutta una questione che l'eroina di quel romanzo, nel gesto del togliersi la vita, fa nei confronti delle persone che gli sono intorno. Per cui noi, di fronte a questa situazione, non possiamo e non dobbiamo non cogliere qual è la cifra comunicativa di questa disperazione. Dobbiamo prendere atto, dal punto di vista epidemiologico, che c'è questa emergenza, ma è necessario chiedersi perché è in atto questa emergenza, e bisogna chiederselo sostanzialmente: qual è l'elemento che va decifrato rispetto a questa disperazione che porta a questo gesto estremo? Chiediamocelo, bisogna chiederselo, e questo secondo me è il primo punto sul quale iniziare a ragionare, cosa che invece non mi sembra sentire, tranne lei, uno dei pochi che sta ponendo il problema. L'opinione pubblica e chi fa politica e chi si occupa di questo in realtà non si sta ponendo in una posizione di interrogazione su questa vicenda. Io devo dire la verità, è chiaro che è un'esplosione, diciamo così, un autoribaltamento comunicativo, l'enfasi comunicativa del gesto del suicidio. E su questo tema, la rabbia nei confronti dello Stato è una specie di rapporto negato verso una comunità che dovrebbe essere avvertita e nascere come inclusiva, quello dello Stato, e diventa invece nemica. Non è un po' anche questo, secondo lei? Assolutamente sì, la rabbia è il termine che coglie l'aspetto comunicativo. Scomodo un attimo la psicoanalisi per tentare di spiegare cosa secondo me sta accadendo. Lacan, famoso psicoanalista francese, simbolizzava la funzione paterna, che appartiene anche allo Stato, come tutto quell'apparato simbolico che per cui ha a che fare anche con lo Stato, certo, che regola in qualche modo la legge, l'etica del soggetto con la sua vita, sostanzialmente. Oggi viviamo in un tempo in cui questa funzione paterna, soprattutto dello Stato, viene meno. Anzi, io purtroppo la devo, però la richiamiamo sì, perché dobbiamo continuare domani a parlare di questa cosa, quindi le chiedo se può anche domani, e lo dico anche a Niccolò Di Prato e Renato da Milano, perché le loro testimonianze, sì, che erano in linea, non possiamo mandarle in onda, perché qui da padre non siamo neanche al patrigno, ma siamo allo Stato orco. È finito il tempo, appuntamento a domani, grazie a tutti.